Avec une chance aussi fidèle que ta gare, ou pas pour le design, pour livrer les paraboles. Que le pas t'apporte, on a la dalle, pas celle qu'on enlève avec une pasta. Pas la cote, trop à l'ancienne, j'ai pas la cote. Voyager c'est cher, pour voir les Seychelles, faut que je m'envoie par la poste. Y'a du picard, des mômes qui craquent, pas d'ambiance tropicale, pas comme un hôpital, tu deviens bizarre quand tu sois trop pigard. Amour et eau fraîche, c'est pas la stratégie. On a passé en stock, demande un bisou, tu récolteras des gifs. Mes chromes démangent, nos gosses dérangent, on encule feu de guerre. Maintenant il me faut des gants, y'aura du sang, je m'en fous que les gosses déhanchent. Monde de putain qui veut du mal, qui veut ton bien. On sait plus qui est qui, comme un cop qui promène son chien. Pourquoi revenir, tu te en ciel. Du sous-sol, je vois plus les arcs-en-ciel. Mon cerveau se fait la belle en embrassant des sucettes à cancer. Il m'arrive de me perdre, surtout depuis Marine Le Pen. Marie te bec, mais j'ai besoin de ça quand je prends ma fiche de paye. Prêt à tout pour la monnaie, tu la surveilles comme ta russe. Pas dans moi, y'a des joujoux à vendre, mais c'est pas Toys R Us. Les grosses fusils pour des low kills, et que je te prends pour d'héroïne. Pas tant pour l'érotisme, mission on rêve que les poules érotisent. C'est mon passe-temps, je veux voir la France dans un tas de cendres. Pas prêt à se rendre, même si j'ai le compte à moins 400. Dur de se lever tôt que des couches tard. Jeunesse infernale, pense au béto. Pour eux, Beethoven, c'est un Saint Bernard. Entre deux checks, faut se démerder, pas demander. Malgré l'échec, mais que demander. En bas de l'échelle, je peux que monter. Les gosses en bas, qu'est-ce que tu veux que je te. Ouais ça cogne en bas, des cours en bas, je crois que le paysagiste a fait une comme en panne. Pour les refrains, j'en ai perdu 10 au moins. Un petit refrain, non, je suis parti trop loin. La France une grande arnaque, avec les bâtards qui sont pas morts de faim, pas de bandana, je fais pas du gangsta rap, j'ai pas besoin de porte-flingue. Plein de mythos, ils ont le style, ça prenne un mou. Mais sur le boulevard on t'a grillé, hein, tu criais, bébé l'amour. L'instrumental, moi je la baisse. Prépare les gros la tête, des fêtes tellement banales. Quand j'ouvre la bouche, tout le monde se frotte la tête. Pas trop semblant, un peu sanglant, je défends ma cause en France. La vie d'élève, pour nous c'est mort, on mise sur nos enfants. Ramène pas de sky, j'pourrais t'en boire des citernes. En guise de point de départ, j'ai mis un TSR 18ème. Buongiorno a tutti e benvenuti a Wombat News. Oggi siamo qui a parlarvi di questione giovanile e di quello che è oggi, come oggi per i giovani il presente, quali sono le tematiche che permeano le vite dei ragazzi del terzo millennio. Sì, prendiamo un po' di spunto da dei fatti che sono successi nel nostro paese in tempi recenti. Sembra che almeno nella nostra regione ci sia stato una specie di riacuirsi della lotta giovanile, anche se molto circoscritta sia in termini di spazio sia in termini di tempo. Però il fatto che per un'intera settimana nelle città di Pisa e Livorno tutte le scuole siano state occupate sicuramente ci ha fatto riflettere, ci ha fatto pensare. Noi ormai così tanto giovani non siamo più, nel senso sì, lo siamo ancora ovviamente, però già è tanto tempo che abbiamo abbandonato i banchi di scuola, è tanto tempo che non ci occupiamo più di mondo prettamente studentesco, e questo ci ha fatto interrogare anche sul fatto che magari sottovalutare così tanto questo aspetto del mondo, del nostro mondo, anche questo aspetto politico del nostro mondo, che sono le lotte studentesche, poteva essere stato un errore, e proviamo un po' a rimediare in extremis dedicando questa puntata monotematica al tema dei giovani e degli studenti. Sì, io penso sia assolutamente un errore sottovalutarla, in quanto dovremmo anche un attimo pensare a cosa voglia dire essere giovani oggi, non solo a livello biologico, perché siamo abituati a pensare che l'età giovanile finisca quando si esce dalla scuola, ma non è così, perché c'è una continuità chiaramente a livello politico. E essere giovani oggi a livello politico significa forse essere in una condizione di dipendenza forte, non riuscire a raggiungere una propria autonomia, e quindi essere costretti sempre in una condizione di appunto sottomissione. E negli ultimi anni ci si è mossi parecchio per stroncare qualsiasi volontà di organizzazione giovanile, a partire appunto dal fatto che non esistono spazi pubblici in cui i giovani si possono incontrare, possono discutere di quello che gli accade intorno, e d'altra parte si abitua sempre di più i giovani all'essere sfruttati. Un esempio è chiaramente quello che succede nelle scuole con l'alternanza scuola-lavoro, il cui obiettivo è puramente abituarci ad essere sottopagati fin da quando si entra nel mondo del lavoro. E una volta entrati nel mondo del lavoro si trova appunto troviamo la disoccupazione, troviamo il lavoro stagionale, che è ancora un modo per non so, per disciplinare, sì, potremmo dire un, sì, un po' le vite di queste persone. Infatti, cioè, secondo me è interessante anche analizzare un po' questo aspetto secondo due punti di vista. Cioè, ora noi abbiamo delle età molto diverse, chi vi parla oggi dalla regia, quindi magari vi possiamo dare anche due spaccati diversi di quella che alla fine è la solita generazione, che però è la solita generazione vista da due punti di vista, una dai piedi e una dalla testa, potremmo dire. E già quando andavamo a scuola io e quell'altro, comunque era una cosa abbastanza frequente anche nelle scuole di provincia, mi viene da dire, perché tuttora questo accade, però... cioè le lotte studentesche ancora accadono, però magari sono cose che più riguardano le grandi città, cose come licei occupati, scuole occupate, magari le vediamo ancora ogni anno, qua a Firenze ogni tanto succede, a Roma succede spesso, a Torino, a Milano potremmo dire. Però certo in provincia è da tanto che non si sente più di scuole occupate. Invece quando ero giovane io per dire sono cresciuto a Prato, e pur se non c'era nulla che potesse assomigliare a un'organizzazione giovanile, non c'erano collettivi, non c'erano spazi di dibattito, non c'erano centri sociali in cui magari potevi andare a confrontarti, però era comunque una sorta di rituale, un rituale che comunque faceva crescere quello di occupare la scuola almeno una volta l'anno, e questo secondo me aiutava a sviluppare un certo livello non solo di conflittualità nel tuo modo di vivere, ma anche di consapevolezza di quelle che erano le tue capacità, comunque dover gestire un'intera scuola per un'intera settimana era un'esperienza a cui molte persone non si erano mai trovate di fronte a niente di simile nella propria vita, ed era una cosa che faceva crescere tanto. Ecco, in questi ultimi anni mi viene da dire che se questo si è smesso di fare non è tanto perché per una questione generazionale, perché i giovani di oggi sono meno combattivi rispetto ai giovani di ieri, ma quanto perché magari l'operazione di disciplinamento che si è voluto inserire nella scuola con tutta una serie di riforme dalla Gelmini in poi ha iniziato a far vedere i suoi frutti, e i giovani non sono più abituati nemmeno a fare quello per cui un po' erano conosciuti, cioè la figura del giovane teppista, la figura del giovane discolo che comunque si ribellava sempre all'autorità, a iniziare dalla prima forma di autorità con cui viene a contatto nel mondo, cioè l'autorità del padre e del maestro. Esatto. E un'altra cosa importantissima è che all'interno delle scuole sono sparite le assemblee di istituto e le assemblee di classe, e non hanno più alcun ruolo, come dire, di discussione, ma più è diventato più un momento ludico in cui appunto rilasciare tutto quello stress che si accumula durante l'anno. E quindi fondamentalmente già prima già è stata tolta quella che era l'autogestione, poi si è passati addirittura a togliere la settimana alternativa e a farla diventare la settimana di alternanza, per ovviare appunto alle tempistiche che non è possibile insomma fare 400 ore di alternanza scuola-lavoro e allo stesso tempo avere un'assemblea e allo stesso tempo riuscire a studiare tutto quello che dovresti studiare. Sì, anche questo entrata a gamba tesa del mondo del capitale all'interno della scuola, sia nelle forme dell'alternanza scuola-lavoro, che è forse la forma più evidente e anche più superficiale, potremmo dire, di inserimento in proprio un cambio di paradigma, nel senso, un tempo la scuola, mi viene anche da dire la scuola come era pensata, la scuola gentiliana, la scuola uscita fuori dalla riforma Gentile, che è la scuola che ci siamo portati dietro fino a che non è intervenuta la Gelmini, perché tutte le varie piccole riforme che c'erano state non l'avevano sostanzialmente snaturata. È comunque una scuola pensata da quello che è un Gentile, era un filosofo idealista, era una persona di formazione di studi classici comunque, ed era una scuola seppur molto classista, perché stabiliva la divisione ovviamente in scuole di serie A, scuole di serie B e scuole di serie C, nella divisione tra licei, istituti tecnici e istituti professionali. Era pure una scuola che pensava la formazione come preparazione alla vita, come costruzione della persona. Quindi per prima cosa puntava a darti una cultura, puntava a darti degli strumenti per poter leggere il mondo. Invece ora possiamo dire che con le ultime riforme l'Italia si è proprio allineata a quello che è il modello anglosassone della scuola, cioè non la scuola che ti forma come persona, ma la scuola che ti forma come mestierante, come lavoratore, che non ti insegna, che non ti dà degli strumenti per leggere il mondo, ma ti insegna una posizione nel mondo, un qualcosa da poter fare nella società per poter appunto contribuire al benessere, il progresso. Mettetevela come vi pare, poi questa cosa si può vedere in senso positivo e in senso negativo, ovviamente a seconda dei punti di vista, però mi sembra che su questo cambio di paradigma possiamo trovarci sostanzialmente d'accordo. Sicuramente in linea con tutte le riforme di questi anni è la costruzione di una scuola disciplinante, sia nella figura, nella società, che proprio rispetto a qual è il tuo ruolo, cioè anche rispetto alla ribellione, si è visto che c'è una sostanziale morsa che vuole impedire ad ogni modo qualunque formazione. Anche negli scorsi anni a Firenze, quegli episodi di occupazione di scuole ci sono state, anche rispetto a, pensando a 10 anni fa, sono stati molto più duramente repressi, con sgomberi, con molte più denunce. Sostanzialmente quella è una repressione poliziesca che comunque gli studenti hanno, prima di qualche anno fa, hanno sempre avuto la legittimità anche di contrastare, perché le loro idee trovavano anche un riscontro alla società, un'accoglienza. Sì, mi viene in mente anche la dura campagna mediatica che ci fu quando qualche anno fa fu occupato l'Istituto d'Arte di Porta Romana, che non solo si vide una grossa repressione da parte poliziesca, ma cosa abbastanza inedita, che però possiamo dire che è diventata abbastanza normale in questi ultimi anni, fu proprio la campagna mediatica che vari giornali, tra cui ovviamente La Nazione in prima fila, scagliarono contro gli studenti, semplicemente per i metodi di lotta molto radicali che avevano deciso di ottenere. Cioè, in quel caso fu contestata molto la decisione proprio di picchettare la scuola e di non far entrare nessuno durante l'occupazione, cosa che però un tempo era normale. Anche quest'anno abbiamo potuto vedere, soprattutto nel caso del liceo Virgilio di Roma, quanto si siano scatenati i media di tutti i tipi nel voler dipingere gli studenti come dei veri e propri demoni. E ovviamente quando la stampa si scatena, anche il lato poliziesco della repressione sta dietro. Boh, non so, volevo aggiungere che, in quanto abbiamo detto appunto che questa scuola ci vuole in qualche modo preparare al mondo che ci sarà fuori, ma in che modo ci prepara al mondo che sarà fuori, se da un sacco di inchieste è emerso che un sacco di ragazzi non sanno leggere un contratto di lavoro, non sanno quali sono i loro diritti lavorativi, e quindi di pari passo non capiscono quello che la politica sta facendo loro e quello di cui li sta privando. Andiamo con uno stacco musicale e... de la société. Hein. Enfin là t'exagères quand même. Je suis vachement, mais c'est vrai. Et comment ça se passe pour les gens comme vous quand il y a du soleil? Vous êtes content qu'il y en ait ou ça vous fait chier que les pauvres en profitent aussi? Tu l'as décroché, vendeur du mois sans déconner, décoré. Ils ont plus des amis, ils ont des collègues, des connaissances, de connaissances. Tu vois le truc, ils mentiront pas plus, vendraient leur âme pour une belle voiture. Les vieux de mon âge pensent que le bonheur est dans un caddie à Darty, que l'art est dans les galeries à Paris. Tapent sous les ordres d'un gros tyran dans leur discours, rien de motivant. Ils parlent de meufs, de mode, pour eux j'ai le mode de vie d'un mort vivant. À part la merde qu'on leur sert fini, ils ils écoutent plus de son. Pour eux, je suis un extraterrestre, je regarde même pas la Coupe du Monde. Ils demandent toujours qu'est-ce que tu fais dans la vie. Après 3 ans en entreprise, ils prennent l'accent, c'est leur vie. Tu peux rester jeune, même marié, 2 enfants. Il vient de souffler 25 bougies, t'as l'impression que le mec a 200 ans. C'est pas bon non plus quand je viens pisser dans tes pots de fleurs. Turbulent, irresponsable, je suis dans le coma, dans mon fauteuil. Les vieux de mon âge me font tous la morale. Avec une fiole dans la nourrage, je la garde nager dans leur bocal. Quand je parle de mon avenir, pour eux, je raconte un tas d'histoires. J'exaucerai mes vœux, allez vous faire foutre, moi j'y crois. Les vieux de mon âge, ils pensent m'apprendre la vie. Ils se croient tous à l'abri, on verra dans l'avenir. Les vieux de mon âge, qu'ils aient 20 piges ou 30 piges. Ils ont vieilli vite, là c'est moi qui refuse de grandir. Maintenant les flics, ils ont mon âge, ils veulent me saboter le moral. Inculpez-moi, libérez-moi, dans les deux cas, niquez vos races. Les vieux de mon âge, soupir quand ils me voient fumer de la beuh. Je subis leur peau d'échappement, ils pensent que le monde est à eux. Y'a de quoi perdre la tête, ça ira pas, même sous effet ralgant. Target, fanbase, ils parlent de toi comme si t'étais de la viande. J'mets pas les pieds là-dedans, vie menaçante, t'es d'ivresse. C'est navrant, leur pas l'hiverne, moi je manifeste comme eux le faisaient avant. Ils jouent les écolos avec leurs poubelles jaunes, que de la prime. Ça joue les activistes avec un Big Mac Coca frites. C'est pollué, mais dans ma rue, j'ai pas vu Greenpeace. Reçois que des factures, j'ai peu de correspondance comme une ligne bis. J'prépare mes conneries, ils me parlent de financement. Vu ma génération, c'est un mauvais coton qu'on file en France. Allez, finis vite, j'te laisse parler comme ça, t'es content. Oui, oui, t'es plus malin que moi, allez, bon vent. Les vieux de mon âge me font tous la morale. Avec une fiole dans la nourrage, la garde nager dans leur bocal. Quand je parle de mon avenir, pour eux je raconte un tas d'histoires. J'exaucerai mes vœux, allez vous faire foutre, moi j'y crois. Les vieux de mon âge, ils pensent m'apprendre la vie. Ils se croient tous à l'abri, on verra dans l'avenir. Les vieux de mon âge, qu'ils aient 20 piges ou 30 piges. Ils ont vieilli vite, bien c'est moi qui refuse de grandir. Je les vois comme des vieux, c'est peut-être moi qui ai un souci. Souvent sous-tise dans cette vie, tout va trop vite, besoin de sous-titres. Je sais qu'il faut que je mûrisse pour grandir, mais pour le moment j'évite. Moi aussi je suis riche, j'ai plein d'yaourts, mais faut les manger vite. Ils mettent des œillères et ce serait moi la brute épaisse. Avant de bouffer ta viande, regarde comment on bute les bêtes. Sa deuxième paire de couilles est sur son chien d'attaque. Ils en veulent à mon flash, ça fait plus chic d'avoir du vata. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Je leur retourne la question. Bah alors, ça dit quoi? Bande de lâches, pas de réponse, hein. Ils ont raison, je tourne en rond, la même patate dans l'estomac. Oui, tout pas que c'est mieux, tu comprends pas un mot d'anglais, connard. Y'a pas à dire, ils me font marrer quand ils font les artistes. Ils ont perdu la fougue, ils sont figés comme le front des actrices. C'est les rois sur leur trône imaginaire. Ils savent tout et chaque année, y'en aura plus, alors faudra s'y faire. Beh, adesso vorrei parlare invece di quelle che sono le cose positive che riscontriamo negli ambienti giovanili e su cui forse un movimento politico dovrebbe puntare, che sono per esempio il fatto che tantissimi giovani, in contrasto con quella che è la politica attuale, sono molto più abituati al giorno d'oggi alla multiculturalità all'interno delle classi, all'interno degli ambienti in cui si muovono, perciò anche il razzismo che vediamo crescere è un razzismo ignorante, perché non il fascismo che vediamo è un fascismo ignorante perché non è realmente consapevole di quello che significa. Perciò spesso troviamo ragazzi che danno del nero, del frocio a qualcuno avendo accanto a sé l'amico senegalese, quindi un po', come dire, contraddittorio. E dall'altra parte invece le tecnologie, che sono sia uno strumento di distrazione spesso, sia uno strumento positivo che può essere sfruttato a nostro favore, come appunto piazza di condivisione e soprattutto come mezzo da poter trasformare e autogestire. Ma e a tuo parere, rispetto appunto agli strumenti di cui parlavi, cioè esiste già in atto una trasformazione in positivo dell'utilizzo di questi strumenti, certo, o è tutta da costruire? No, esiste già e deve essere solo alimentata e fatta conoscere alla maggior parte delle persone possibili. Quindi appunto tecniche di autogestione digitale, nuovi software che non siano nelle mani di appunto pochi piccoli imprenditori capitalisti, ma un'organizzazione orizzontale. E, non so, un altro tema, per esempio, di cui secondo me bisognerebbe un sacco puntare è quello del gender e appunto delle lotte che riguardano la sfera sessuale, perché negli ultimi anni si è visto come i ragazzi siano molto più aperti a tante tematiche e come dall'altra parte la politica invece si stia chiudendo in questo senso. E anche questa è una contraddizione fortissima che non emerge e dovrebbe invece essere tirata fuori. Sicuramente, cioè, pensando a queste due questioni, quella del razzismo e del gender, secondo me sicuramente è una questione che è in forte incompatibilità con quello che è il sistema dominante che permea le nostre vite e che in questo momento è effettivamente è dominante più che altro del dibattito pubblico e dell'opinione. Io immagino, cioè, che una questione del genere, che è così tanto di rottura, oggi si possa esprimere tramite forse un forte movimento culturale, perché comunque è una roba sicuramente di massa, oltre gli ambienti ristretti di circoli politici, cioè probabilmente fatica ad uscire da circoli politici, però come questioni concrete, anche quella del razzismo e della multiculturalità di cui parlavi prima, ovviamente stanno anche al di fuori di qualunque ambiente politico, e sono contraddizioni emergenti che probabilmente avrebbero bisogno di un'onda che riesca a tirarlo fuori, un legante che lo concretizzi su quella che può essere una rivendicazione di vita, ma non da fare a qualcuno, da cominciare a imporre nelle nostre vite, che alcuni atteggiamenti siano normali, alcuni atteggiamenti non siano discriminati, determinati modi di vivere diventino una forma di comunitaria diversa anche, perché poi spesso quando si parla di razzismo, di integrazione, di immigrazione, si ha a che fare con anche tanti casi di comunità spesso a sé separate, quindi con forme conflittuali. Sì, ma infatti un punto fondamentale secondo me che dovremmo creare dove non ci sono, dove appunto sono stati distrutti, dei luoghi di confronto, di socialità, per cui dove si possa creare una cultura giovanile, una controcultura che possa in qualche modo alimentare seguito. Partire da questo punto di vista, quindi invitiamo sicuramente tutti i ragazzini che ci stanno ascoltando a occupare le proprie scuole, magari certo, occupare anche qualcos'altro. Sicuramente quella è una buona pratica che va riscoperta e riniziata a praticare. Ecco, io, se abbiamo finito su questo argomento, volevo un po' tornare a una cosa che avevi detto all'inizio perché mi aveva interessato molto, cioè il fatto che è caratterizzato quasi in senso negativo. Nel senso, giovane chi è? È chi non è autonomo, chi dipende da qualcos'altro. E questa sicuramente è una cosa interessante. Però mi veniva in mente un libro che noi abbiamo molto amato negli anni precedenti, che è il libro del Comitato Invisibile ai nostri amici, che proponeva quasi l'esempio contrario, cioè diceva che la gioventù in realtà la caratterizzava in maniera positiva, cioè come uno slancio verso la trasformazione, certo, come uno slancio vitale verso il mondo. Quindi, diciamo, ribaltava quasi il tuo punto di vista all'inizio, dicendo si può essere giovani anche a 50, 60 anni, fin tanto che si ha dentro di noi questa tensione alla trasformazione del mondo. No, ma sono d'accordissimo, cioè nel senso il ruolo secondo me che il giovane ha nella società è quello appunto di rinnovare, di costruire sempre qualcosa di nuovo e qualcosa che sia migliore, e quindi sì, fondamentalmente sì. Cioè, interessante secondo me anche tenere, cioè io non penso che ci sia un modo di vedere giusto e un modo di vedere sbagliato, penso che tutti e due questi aspetti, entrambi politici, della caratterizzazione del giovane, siano aspetti interessanti da tenere sott'occhio. Facciamo una breve pausa culturale. Io a questo proposito volevo consigliarvi un libro che ho amato molto, scritto da un compagno che purtroppo ci ha lasciati un po' d'anni fa, che è il grande sociologo Valerio Marchi, che molti di voi forse conoscono anche perché è uno dei pochi che è andato a, analizzare, a studiare proprio quello che è il mondo degli ultra, del tifo negli stadi, è molto conosciuto per questo, ma ha scritto anche questo breve libro, edito da Derive a Prodi, mi sembra. No, non Derive a Prodi. Vabbè, cercatevelo su Red Star Press, forse, comunque una di queste case editrici amiche, diciamo. Questo libro si chiama Teppa ed è una storia proprio del teppismo giovanile, cioè del giovane visto come diverso, come deviato, come criminale, un po' dalla nascita del termine. Forse qualcuno di voi lo saprà, la teppa non era altro che questa gioventù milanese che si radunava davanti al Castello Sforzesco di Milano, che all'epoca non era come ora in piena città, ma era comunque fuori dalle mura storiche, c'era questo spiazzo erboso davanti, e lì si radunava e poi andava a giro per la città a fare atti di quello che oggi potremmo chiamare vandalismo. Però è ovvio che in un mondo che rifiutava questi poveracci, quel vandalismo aveva una forte carica politica, e da lì arriva ad analizzare vari comportamenti, vari fenomeni di cultura giovanile che ci hanno accompagnato fino ai giorni nostri. Quindi è un libro che, se non avete già letto, vi consiglio di procurarvi. Andiamo con uno stacco musicale con un gruppo fiorentino, i Carlos Dunga. Ecco, bentornati, sento ancora musica in cuffia, ok, risolto. Ok, siamo quasi in chiusura di puntata, vi lasciamo con una breve intervista in vista di una manifestazione che si terrà questo sabato, per rimanere in tema, che è indetta dalla rete dei collettivi fiorentini, per protestare contro le cattive condizioni in cui versa l'edilizia scolastica e in genere contro tutta la stretta securitaria che si vorrebbe portare nelle scuole dal governo Salvini. Bene, andiamo con l'intervista. Con due studenti medi fiorentini che salutiamo. Ciao. Ciao. Io sono Oliver. Io della rete. Non senti in cuffia. Di cosa vi state occupando ultimamente con i vostri collettivi? Ma ultimamente le rivendicazioni sono già, quindi siano gli obiettivi, le lotte che portiamo avanti sono quelle che già da sempre, diciamo, l'antifascismo, i valori che di sempre, e soprattutto c'è un argomento su cui ci stiamo focalizzando negli ultimi tempi, è l'edilizia scolastica, perché diciamo quest'anno sono stati diversi problemi in tante scuole in giro per Firenze, anche altre realtà se ne stanno occupando, e infatti questo sabato abbiamo lanciato un corteo proprio appunto per portare in piazza queste rivendicazioni. Perfetto, quindi questo sabato, quindi sabato 9 febbraio sarà la manifestazione, ci vuoi dire anche da dove o l'orario? Sì, e alle 9, no? Da Santa Maria Novella, e finirà in piazza Razzelli più o meno, e il tema oltre a quello dell'edilizia in realtà è anche quello della repressione, nel senso che del fatto che i soldi vengono tolti alle strutture per essere dati a telecamere o a sbirri con i cani che entrano nelle scuole, quindi a tutto quello che è l'apparato repressivo all'interno della scuola. Quindi si parla anche di un cambiamento recente, diciamo sempre più oppressivo rispetto anche, mi ando a pensare a quando andavo a scuola io, ecco, magari era un episodio, era una roba più che casomai episodica, ecco, molto rara, e la presenza, non so, di sbirri a scuola, di interventi esterni, controlli strani. Sì, soprattutto negli ultimi anni i governi precedenti hanno, quello che hanno fatto è stato semplicemente non fare nulla riguardo delle scuole, come che sia dal punto di vista dell'istruzione e dell'edilizia, hanno solo creato nuove riforme come quella della buona scuola, di cui conosciamo tutti i vari risvolti negativi nella stragrande maggioranza dei casi, e gli ultimi eventi sono stati quelli del nuovo governo, un taglio dell'8% ai fondi delle scuole, consigli comunali, giunte comunali che non riescono a gestire questi soldi, che tra l'altro sono pochi, e le varie sovrintendenze delle scuole nelle città di tutta Italia, perché la rete dei collettivi è legata a molte altre realtà cittadine e regionali in tutta Italia, nelle scuole con dei centri storici molto estesi, come per esempio da noi a Firenze, e alcune istituzioni come le Belle Arti gestiscono i fondi scolastici e letteralmente le scuole in sé, perché molte sono antiche e per questo non lasciano modo agli studenti o comunque alle dirigenze delle scuole di fare ristrutturazioni o quel che si voglia, quando allo stesso tempo sono loro stessi che con delle scuole fatiscenti decidono di non fare nulla, di non migliorarle. Ok, quindi abbiamo la situazione, diciamo, tipica anche negli ultimi anni di sempre maggior disinteresse verso quello che sarebbe la struttura scolastica, e magari anche quello può essere, immagino con questi vincoli sia anche difficile pensare da studenti di proporre delle modifiche a qualunque aspetto, ma anche della struttura scolastica, del funzionamento, di, non so, se uno volesse risvingere un corridoio, immagino non sia facile in una scuola del centro storico. No, poi soprattutto c'è un modo di fare, diciamo, non solo a livello della città metropolitana, ma anche dei prezzi. E quindi, no, praticamente la responsabilità viene scaricata a vicenda dalla città metropolitana sui presidi e viceversa. Uno parla con la città metropolitana e viene detto sì, ma se ne occupa il preside di cose, di interventi di piccola manutenzione, tipo cambiare una maniglia, rimettere a posto una porta, quindi cose davvero che si cambiano in veramente poco tempo, in interventi rilevanti. E se uno sente il preside invece viene detto no, ma dovete sentire la città metropolitana, ci sono procedure legali, ci vuole tempo. E fatto sta che, per dire, a scuola mia sono mesi che le porte dei bagni non è che si aprono, vanno spostate, perché non c'hanno più alcune neanche cardini, per dire, o non ci sono proprio. E la situazione è questa. Cioè, c'è uno scaricarsi la colpa a vicenda e sembra che la responsabilità non sia di nessuno, praticamente. Inoltre, questo non poter agire sulla propria scuola limita gli studenti anche da un secondo punto di vista, ovvero quello dell'aula autogestita, che dovrebbe essere un diritto di ogni corpo studentesco, anche se negli anni pare che molti se ne siano dimenticati. E per esempio nella mia scuola pur avendo dall'anno scorso una preside molto in gamba che si vuole impegnare per noi e dalla nostra parte, alle mani legate appunto da chi, da città metropolitane, da ingegneri comunali, che li vietano di far sostare i ragazzi, di farli rimanere all'interno della scuola, o perché per vari problemi vengano fuori la mancanza di bidelle, di personale che li controlla, o la mancanza vera e propria di aule a norma dove si possano fare entrare dai 20 ai 50 studenti un pomeriggio a settimana. Tra l'altro, per promuovere, per portare avanti delle non solo rivendicazioni politiche, ma anche semplicemente luoghi dove i ragazzi possano studiare il pomeriggio. Questo non è possibile. Noi ci ritroviamo, infatti, quella volta a settimana in cui ci ritroviamo, un gruppo di studenti a studiare fuori, d'estate, d'inverno che sia. E questo ovviamente non va bene. Ogni corpo studentesco, ogni scuola deve dare la possibilità agli studenti di utilizzare la propria scuola come, tra virgolette, come meglio credano, appunto. Ok, quindi possiamo dire, cioè, che alla fine l'insieme di legge e dell'apparato burocratico, in questo caso anche dove c'è la volontà, impedisce di fatto qualsivoglia altra attività oltre all'ordinario svolgimento delle lezioni, se ho capito bene. E quindi, diciamo, siamo di fronte a un problema che è più ampio, diciamo, di quella che può essere una singola scuola o la città stessa. Avete parlato infatti di una rete nazionale, ci saranno altre manifestazioni in questa settimana? Oddio, allora questo io non. Sì, ci saranno ora questa settimana, non ne sono certo. Però sì, la rete dei collettivi è, come ho detto prima, è legata a molte altre, a Milano, Roma, Palermo, in Sicilia, a Catania, per esempio, e spesso e volentieri siamo collegati. Per esempio, le ultime manifestazioni sono state a Roma, molti di noi sono andati, ci organizziamo come possiamo, ovviamente, per far spendere il meno possibile agli studenti e andare a fare solidarietà appunto tra i vari studenti. Alcuni di altre città sono venuti da noi alcune volte e noi andiamo da loro, perché crediamo appunto che la via del cambiamento sia attraverso l'unione degli studenti in questo caso. Poi cerchiamo di legarci anche a altre realtà cittadine, come possono essere le comunità curde o durante per i recenti avvenimenti, insomma, delle guerre in Libia, o possono essere i sindacati, le associazioni, per esempio, quelle partigiane, esempio. Sono tutte quelle piccole minoranze all'interno di una città, di una regione, che come gli studenti vengono prese molto poco in considerazione, soprattutto rispetto all'ultimo governo e come hanno fatto anche i precedenti. Ma sta cercando sempre più di dimenticarsi della scuola, come se il problema non fosse quello, come se questo non fosse uno dei problemi maggiori, ma si occupa di altre cose irrilevanti, anzi sbagliate. Sì, e poi appunto, guarda, proprio riguardo a questo, per dire, il 16 a Roma c'è un corteo nazionale con la comunità, faccio insieme alla comunità curda, o per portare rivendicazioni anche più ampie, vanno al di là di quelle che sono le nostre singole scuole. Ed è sabato, sì, 16 febbraio a Roma. Perfetto, grazie. Quindi abbiamo visto appunto un po' la situazione studentesca fiorentina anche in funzione a, diciamo, tutto il cambiamento di stampo repressivo e securitario che sta avvenendo in questo paese. Io vi ringrazio. Grazie a voi. Buona fortuna. Volete comunicare le date in cui vi trovate il collettivo, qualcosa del genere? Non importa. Ci riuniamo il lunedì alle 3 qui a Allo Spazio spazio inchiostro. Inchiostro. E ogni tanto organizziamo assemblee studentesche aperte a chiunque, cioè anche le assemblee di lunedì ovviamente sono aperte a tutte, ma in vista di manifestazioni, cortei, presidi, organizziamo delle assemblee appunto per chi è già dentro la rete e vuole portare studenti nuovi del proprio collettivo appena arrivati al liceo, per introdurre i ragazzi non tanto alla rete, ma quanto all'impegno politico e a far capire appunto che è un diritto e un dovere di ogni cittadino in quanto anche minorenne. Perfetto. Ok, quindi un corteo ben motivato, ovviamente invitiamo tutti e tutte a parteciparvi. Noi non penso che abbiamo molto da aggiungere. Diciamo sicuramente torneremo, cioè una cosa che mi sento da aggiungere è che magari questo tema diciamo della nostra generazione nelle prossime settimane torneremo ad affrontarlo perché pensiamo sia estremamente importante per tutti noi come generazione, come realtà di movimento e come sfida per il futuro. Da settimana prossima forse saprete anche il nostro nuovo nome del programma, speriamo. Anzi, sicuramente, perché comunque, come abbiamo detto la scorsa settimana, adesso Wombat News in realtà è un programma di approfondimento a cui invitiamo anche a contattarci telefonicamente. Ci organizzeremo come l'anno scorso con una piccola chat, con un numero telefonico a cui contribuire al programma. E quindi ci vediamo martedì prossimo a mezzogiorno, sempre alla solita ora. Ricordiamo che trovate tutti i nostri podcast sul sito di Radio Wombat, wombat.noblogs.org. E un saluto, a presto. Vi lasciamo con Passaggio a Nord-Ovest. Ciao. Ciao.